Dai, incominciamo. Dico due parole all'inizio per illustrare lo svolgimento che avevamo pensato. Allora, si pensava di incominciare ascoltando il contributo di Alessi dell'Umbria, che è stato registrato da Radio Cane, mettendogli sotto la parte finale del film Les Misérables, senza sonoro, ma è un film che non ha bisogno di parlato, si capisce benissimo. Poi dovrebbe intervenire Agostino Petrillo, che è la prima volta che fa un'iniziativa qui in Conchetta, ma con noi ha fatto già varie cose, in particolar modo in una giornata di approfondimento sui temi della trasformazione della città, in particolare delle periferie, che fu fatta a Casa Crescenzago a sostegno degli imputati del processo Giambellino. Poi ci siamo visti varie volte per altre cose, da ultimo anche nella presentazione del libro su Cospito. Agostino ha curato un libro molto importante, la traduzione italiana del libro molto importante, che si intitola Una terra algerina, terra di bidonville, e quindi potrà parlare di Nanterre com'era negli anni 50, com'è divenuta oggi, e quindi all'interno di questo filo le rivolte ultime. Poi ci sarà un collegamento con un compagno che sta in Francia, Alessandro Stella, che abbiamo avuto l'altra settimana a parlare dei Ciompi. Metà della discussione già quella sera riguardava le rivolte dei Ciompi d'oggi, le Baglie. Poi la discussione, ci saranno, se hanno voglia, gli interventi di due compagne che sono state di recente in Francia, hanno vissuto varie situazioni e hanno parlato con i compagni di su di quale può essere il contributo nostro alla mobilitazione, alla presa della strada da parte dei giovani e giovanissimi delle Baglie. Quindi uno dei temi secondo me più salienti e che dobbiamo cercare di affrontare e risolvere. E poi il resto a ruota libera. L'idea era di chiudere con la proiezione di un cortometraggio di Jean-Marie Straub e Denis Ollier, fatto nel 2006, subito dopo le rivolte dell'ottobre 2005, nella ricorrenza della realizzazione del film Europa 51, Straubelier fecero Europa 2005, 27 ottobre, dedicato ai due ragazzi che morirono fulminati nella centralina elettrica inseguiti dalla polizia. Questo è un po' il palinsesto della serata, che possiamo cambiare come meglio ci pare a seconda dei desideri. Per cui se Stalli è pronto, manderei Alessi dell'Umbria. Tra l'altro di dell'Umbria abbiamo stampato la traduzione italiana di un suo intervento, secondo me importante, che è comparsa su Napoli Monitor, così come abbiamo stampato un altro intervento che è stato pubblicato sul blog Il Rovescio, e siamo riusciti incredibilmente a procurarci alcune copie del libro curato da Agostino, che lui ha in una sola copia e che non ci intende cedere assolutamente. E basta, direi che possiamo iniziare. È un'altra generazione, una parte importante di quelli che stanno per strada, stavano per strada questi giorni, molti non erano neanche nati nel 2005, o allora c'erano 3-4 anni, però c'è la memoria di 2005. E questo che ho detto, questo fare il casino così, distruggere tutto, bruciare tutto, non farà tornare alla vita questo povero Nael, sì, lo sappiamo. Però rimarrà vivo nella memoria comune. Questo è importante per costruire una tradizione politica, di ribellione politica, molto importante. grandir en cité. Tu le sais, c'est la guerre, inégalité sociale, mon frère. C'est la guerre, la France veut nous faire du mal normal. C'est la guerre. L'inizio è che c'è un ragazzino con la macchina senza la patente da guidare, perché a 17 anni non si può avere la patente. E poi, come diceva il nostro gran poeta Arthur Rimbaud, a 17 anni non si può essere serio. A 17 anni on n'est pas sérieux. E si fa arrestare da due polizie con la moto, direttamente con la pistola in testa, e il collega di quello stronzo di poliziotto che gli dice: dai, dai, ma matalo, così shootalo. E questo ragazzino si è spaventato. La macchina era un'automatica, quindi suppongo che ha fatto una con i piedi, ha lasciato i pedali, boom, la macchina ha fatto un piccolo salto in avanti e il poliziotto ha sparato. Quindi il ragazzo è morto quasi subito. C'era una ragazza con lo smartphone che ha visto la situazione. Poi ormai la gente, soprattutto dopo il caso di George Floyd in Minneapolis in America del Nord, la gente lo sa che si deve filmare. Se uno c'è lo smartphone e vede un controllo di polizia, ormai molta gente sta filmando casomai, e difatti è successo il peggiore. Guerrier, le cas toujours en série A. Cruels sont nos ruelles. Nos peuples, nos politiques cherchent le duel. Tous des larmes et des corps au bout du tunnel. Nello spazio di un'ora ha circolato su tutte le reti sociali queste immagini. E quindi è stato veramente veloce. Già nella notte iniziavano i morti a Nanterre. E poi c'è stata la marcia giovedì, dove c'era 6-7 mila persone, una marcia chiamata solo la vigilia, multietnica, la moltitudine, diciamo. Bianchi, neri, arabi, giovani, vecchi, uomini, donne, che boh, alla fine, diciamo, vabbè, è finito in scontri duri con la polizia, come era normale che succedesse dopo questo. E poi nella notte è stato proprio un casino totale. Alors je m'abitre kaki avec une capuche sur la tête. On tire en l'air pour faire la fête. On tire sur toi pour faire la guerre. C'est la guerre dans les rues, les jeunes charbonnent. Toi, regarde ça, c'est toi. Noi nel pomeriggio stavamo a Montreuil. Montreuil in 2005 c'è stato un po' di casino, però non un granché. Come ti ho detto, il 2005 era piuttosto le periferie lontane di Parigi. Quest'anno invece non solo c'è anche questa volta la periferia lontana. Ad esempio Aulnay-sous-Bois, che già era stato uno dei punti caldissimi del 2005, anche questa volta che proprio il limite nord della periferia. Però anche la periferia era proprio vicina, quella che si chiamava 40 anni fa la banlieue rouge, la periferia rossa, perché tutti era il partito comunista che gestiva quei municipi. E anche nel centro, anche in Parigi stesso. E lo stesso è successo a Lyon, a Marsiglia, a Toulouse. Toulouse è una città che si era mossa in 2005 veramente proprio nella periferia, che si chiama la Rennerie. E lì ci sono stati il primo giorno, poche ore dopo l'omicidio di Nahel, e succede il casino totale, moltissima gente per strada. Vabbè, diciamo che la differenza con 2005 è che questa volta è andato anche nel centro città, anche in città veramente piccole, anche in paese. Ci sono stati posti di polizia bruciati in paesi di cui neanche avevo sentito parlare, tipo paesi di 3.000 abitanti, tipo 15-20 ragazzi del paese si dicono: vabbè, facciamo bruciare quei bastardi. E veramente c'è stata una copertura geografica molto più larga che in 2005, sia nei punti più isolati del paese che in punti più centrali come il centro di Parigi, Lione di Marsiglia. Sarebbe più facile di dire dove non c'è stato il casino. Marsiglia hanno aspettato il venerdì, però hanno recuperato il tempo perso. Si dice che su 800 negozi saccheggiati e rubati in Francia, la metà sono stati a Marsiglia. E un po' di tradizione a Marsiglia. Gente povera. On ne sort, nous serons les mères de demain. Wesh wesh cousin, mafia caca. Pour les carouches, les harbouches, les manouches, en galouche. Ma anche parliamo a Montreuil, che è una periferia molto importante di Parigi, dove ci sono molti gente tipo anarchici, autonomi, molti alberghi per gli emigrati africani, poi molte città HLM. Hanno saccheggiato assolutamente tutto quello che si poteva saccheggiare. Tutti i supermercati delle Auchan, Carrefour, Aldi, Lidl, tutti quelli, non c'è più neanche uno stuzzicadenti da rubare. Hanno rubato tutto. I prodotti di lusso, come i prodotti come la carta igienica, tutto. C'est pour les gens valjean, les gros barjols, les rageuls qui roulent en BM à l'ancienne avec les farjols qui roulent quand t'as slip, tu joins dans le sang. E anche i negozi di lusso, chiaramente a Marsiglia, sono andati direttamente nelle strade commerciali del centro città. Nike, Lacoste, le botteghe di smartphone, cioè il classico, gioielleria. Però anche delle botteghe tipo salumeria, tutto quello che si poteva rubare. Anche hanno fatto bruciare due supermercati nella zona nord di Marsiglia. Poi c'è gente che stanno piangendo dicendo quelli che vanno a essere penalizzati prima, gente della periferia che stavano lavorando in questi supermercati. E io dico sì, però possiamo dire anche che tra quelli che hanno appiccato il fuoco c'era gente che avevano lavorato lì, in questi supermercati, sfruttati come si può essere sfruttati in questi supermercati di sconto e a essere trattati come schiavi. Seul là-bas, pour les croyants, les faillants, qu'on peut culture immature, et faut rire au couscous, au coussin, tu vois. Scontri diretti con la polizia, pochi. Il giorno della marcia a Nanterre, sì, abbastanza. Però in modo generale erano più saccheggio, incendi, poi distruzioni di cose tipo sistematicamente i giovani hanno distrutto le camere di videosorveglianza. I commissariati, anche i posti della gendarmerie come i carabinieri in Italia, alcune scuole che per loro, per molti di loro sono il simbolo di un mondo che non è proprio fatto per loro, e poi anche dei municipi, anche molte botteghe tipo fast food, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, quelle stronzate. E vedo a Montreuil hanno saccheggiato assolutamente tutto, solo il cinema di Montreuil l'hanno lasciato. Il cinema dove sicuramente molti di loro vanno a vedere un film. A chi ome le gourmet qui baisse patronat 24 sur 7 envers nous, l'état a des dettes, a tous ceux qui chantent nos hymnes dal champ libre e tous ceux comme ceux. Io vado a Marsiglia, hanno saccheggiato un casino di cose nella zona nord, però non hanno toccato l'après-M. L'après-M era un ristorante McDonald's, fast food, un bivio molto importante nella zona nord di Marsiglia, dove non c'è più niente adesso, neanche un bar per prendere un caffè. McDonald's, siccome non facevano abbastanza soldi in questa zona, avevano deciso di chiuderlo 3 anni fa. E gli impiegati, che tutti vengono delle zone dormitorio dintorni, hanno deciso di occupare il posto. Poi con il nuovo municipio hanno ottenuto che l'affitto per un euro simbolico, perché il comune ha comprato a McDonald's. E autogestito, proprio il comune ha lasciato i ragazzi fare l'autogestione del posto, tanto per non avere problemi con loro appena cambiato il municipio, vedi? Prima era di destra, ormai di sinistra, la sinistra, sai, come dalle parti vostre. E quindi negli intorni ci sono stati scontri con la polizia, per cui i ragazzi non hanno toccato questo posto. Non hanno proprio toccato, che era un posto dove molte famiglie durante l'episodio del Covid-19 venivano perché organizzavano raccolti di cose da mangiare per le famiglie disoccupate, senza reddito, che non si muore di fame quando c'era il confinamento. Quindi vabbè, non è che si parla di distruzione cieca, però non li vedo questo tanto cieco. Secondo me sì, a volte, come ti dico, la serata dove stavo a Belleville, sono arrivati i pompieri a un momento e poi hanno sparato sui pompieri che non possano, cioè, spendere il fuoco. Però anche su due o tre hanno tirato sulla gente che stava guardando. Che forse la gente del rione. J'entame une valse avec le bitume, par coutume, par habitude. Révolté par le réel, par les pensées, les attitudes. Enclin à la lassitude, j'ai préféré le combat. Faut se révéler, se répéter, référer les combats. Faut se réveiller. Però d'altra parte si deve sapere che hai sentito parlare di uno stronzo che si chiama Eric Zemmour. Il suo braccio destro ha iniziato un crowdfunding per aiutare il poliziotto che sta in carcere, Nello spazio di 5 giorni si è fatto 1,5 milioni di euro, che non è poco. Molta gente stanno commentando, diciamo, vabbè, è un'incitazione proprio a altri omicidi. Se tu matti, vai a uccidere un ragazzino così e ti becchi 1,5 milioni di euro, è proprio un'incitazione a uccidere. Questo è tremendo. Poi ci sono stati anche gruppi fascisti che sono intervenuti in alcune città per fare la caccia ai saccheggiatori. Questo si è visto a Lione, però a Lione la sommossa era tan forte che non hanno fatto un granché. Però in alcune piccole città dell'Ouest di Francia, tipo Angers, Lorient, Nantes, gruppi tipo di 40-50 ragazzi con manganelle sono arrivati, hanno preso a manganellata qualsiasi ragazzo, tipo un poco con un look un po', diciamo, borgataro o un poco con la pelle scura. A tal punto che anche a Lione la polizia ha cacciato via quel gruppo. Per un modo generale si sa che ci sono complicità forte tra la polizia e quei gruppi. Un sondaggio 2 anni fa dice che 55% della polizia francese votano per il Fronte Nazionale. Si sente che c'è una mobilitazione sulla destra dura, sapendo già che i mass media in Francia, molte catene di televisione, sono la proprietà di gente come Bolloré, Bernard Arnault, pezzi grossi del capitalismo francese, e anche alcuni conosciuti per le loro simpatie a destra estrema. Quindi abbiamo gente come Eric Zemmour, Cyril Hanouna e altri qualunquisti razzisti che tutto l'anno, si vede loro tutto l'anno. Et anche adesso. Les croisés niquent les croisades, les croisières, les croisés tiquent les croix de fer. Et je crois que c'est la tolérance qui nous attire vers le vide. Je vais mettre un pied devant l'autre, mais la télé me fait perdre le rythme. On ne veut pas de terre de risque. Quindi c'è un ambiente generale, un background, una Stimmung, come direbbero i tedeschi, molto sicuritaria, razzista, di odio contro questi ragazzi. Di qui, di più, la rivolta sembra a molta gente pura pazzia, senza rivendicazione. Il discorso sempre lo stesso che abbiamo già sentito in 2005. Il 2005 era più tra i ragazzi e Sarkozy. Questa volta è più veramente un ambiente di guerra civile. Dans la plupart des villes, trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. In alcune città di Francia, le manifestazioni che erano previste da una settimana contro la dissoluzione dei soulèvements de la terre, dopo il casino di Sainte-Soline e altre azioni, specialmente un'azione vicino Marsiglia contro una fabbrica di cemento. E queste manifestazioni infatti sono trasformate in manifestazioni contro la polizia, contro l'omicidio di Nahel, perché succedeva proprio lo stesso giorno. Quindi la gente si è solidarizzata pubblicamente, poi anche in due posti è finito gli scontri con la polizia. Quindi per una parte i giovani dei rioni popolari hanno molto più nemici dichiarati che in 2005, però c'hanno molto più amici dichiarati. Per questo sto parlando di ambiente un poco di guerra civile. Vabbè, diciamo, la Francia è uno stato poliziesco da sempre, però è vero che adesso si è visto chiaramente all'Assad Nord-Amderland, o si è visto con i gilets jaunes, che c'è un livello di violenza. Io ho partecipato a un casino di situazioni di scontri con la polizia nella vita mia, però come questi ultimi anni non avevo mai visto. Adesso, se vado, fosse solo una manifestazione, ci vado veramente con tutto l'attrezzamento, eh? Ci vado con una coquiglia per proteggere i coglioni, perché ti sparano, con il flashball. Ci vado con la maschera contro il gas, ci vado con gli occhiali di squash per proteggere gli occhi del flashball, ci vado con il kawé, ci vado con i guanti, anche se non faccio niente. A volte sono stato, non ho fatto niente, chi deve essere qua, a volte ho fatto un po', però anche se non faccio niente ci vado con tutto l'attrezzamento tipo Blackwell per proteggermi. E ormai io vedo nelle manifestazioni molta gente, anche gente che veramente cittadinista, che hanno capito che devono prendere almeno una maschera per il gas e occhiali per proteggere gli occhi. Plus fonctionnel du terrorisme d'État, coûtez grave une clame et à vous autres, oh et qu'on a plein de belles choses à construire. Poi i parametri del mantenimento dell'ordine hanno cambiato. Tutto fino a 20 anni fa era spaccare la folla, tirare granate lacrimogene e lasciare sempre delle vie aperte perché la gente possa scappare, la dispersione. E questo era l'obiettivo. Poi con questa tattica della NASA, il concetto è cambiato totalmente. Si tratta di rinchiudere la gente per ore e ore, cioè di castigare anche nel corpo, non solo uno che si può beccare una granata in faccia, però anche il fatto di mantenere persone 5, 6, 7 ore senza poter bere acqua, senza poter fare una pisciata, niente, e poi di verificare i documenti a tutti quelli che escono dalla NASA. Però è questo il concetto. E l'obiettivo è proprio di l'intimidazione e di fare male, come abbiamo visto con i gilets jaunes, dopo la sommossa tremenda del 1° dicembre 2018 a Parigi. La parola d'ordine è ormai in tutte le situazioni così, è fare veramente proprio male, veramente mutilare, proprio l'idea è di fare moltiplicare le mutilazioni. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Hanno provato di fare questo giovedì a Nanterre e non sono riusciti. A Marsiglia hanno fatto una NASA gigante sul Porto Vecchio, solo che c'era tanta gente nella NASA che alla fine la NASA si è spaccata perché hanno potuto impedire alla gente di andare di qua, di là, spaccare le vetrine. Però questo è il nuovo concetto. Poi ci sono delle tecnologie di ripressione che non c'erano prima. Le granate offensive si usavano già, però era proprio eccezionale. Ormai è proprio, per dirti, nel mio rialdo facciamo un carnevale selvaggio ogni anno senza chiedere il permesso. 2 o 3 volte hanno attaccato il carnevale, in fin di carnevale, dove c'erano i bambini anche, tirando a volte quelle granate offensive, di quelle che hanno ucciso Rémi Fraisse, per dirti il livello di pazzia. Poi ci sono il flashball, LBD si chiama adesso, che tira delle gomme molto dure. Poi c'è il taser, quella cosa che fa una descarga elettrica. A Marsiglia 2 anni fa un clandestino è morto così, perché il cuore l'ha lasciato dopo il shock elettrico. Poi ci sono i blindati, in piena crisi sanitaria del Covid, dove era chiaro che non c'era abbastanza personale negli ospedali. Hanno fatto una comanda che ha costato un casino di soldi per dei carri blindati della gendarmerie e che abbiamo visto per strada sti giorni. E poi gli elicotteri, i droni. anche se i droni a volte, quelli simpatici della Marsiglia, ci sono molto gabbiani, uccelli di mare. Parecchie volte i gabbiani hanno attaccato i droni, hanno distrutto i droni, pensando che era un animale tipo ostile. Veramente è successo? Anche in alcune città di Bretagna è successo, dove pure lì ci sono, perché c'è il mare, c'è, sono gabbiani. Qui hanno un livello di materiale per fare male che è veramente impressionante. Per questo i giovani di Gerardo vanno al loro scontro diretto, eh? Anche se si sono beccati cocktail molotov a volte, però ormai è di moda proprio i fuochi. Specialmente in Polonia si può comandare, ti lo mandano per la posta. Ci sono alcuni tipi che sono veramente potenti, eh? Quasi al livello di una granata, non tanto perché non ci sono i pedazzi di metallo, però veramente quando si spara sulla la BAC, quelli in C, in borghese, e quando se lo prendono in faccia scappano via senza aspettare, eh? Anche con i Robocop, con tutta l'attrezzatura di protezione, se a volte, quindi ormai è molto più a distanza, quindi anche noi ci stiamo organizzando, ci vuole. Poi per esempio si diceva che molti gruppi in certe situazioni erano veramente organizzati, tipo gruppi molto mobili di 20-30 giovani, con gente con il motorino che girano di qua di là per vedere, anche con, sai, con questi telefonini antichi come ci avevano i nostri bisnonni, il telefonino degli spacciatori, perché non si può identificare, si compra così senza lasciare identità, che servono solo per una volta. Quindi con questo comunicano tra di loro, quindi c'è una capacità di movimento veramente forte che la polizia non riesce a controllare. Poi ci sono le reti sociali che non c'erano allora, nel 2005, quindi Macron ha pianto su questo, sono ragazzini che non sanno niente della realtà, che vivono tra la loro bolla di internet. È proprio lui che ha fatto tutto quello che poteva per sviluppare l'informatica e l'internet nelle scuole. Poi tutto questo viene dopo la repressione di Sainte-Soline. C'è stata una manifestazione contro un progetto eco-mostruoso nell'ovest di Francia, sai, le mega bacine, dove c'è stato un livello di repressione tremendo. Ci sono due persone che sono rimasti 2 mesi dal coma, di cui uno rimarrà proprio invalido tutta la vita sua. Quando io non ci stavo, per amici che ci stavano e che stavano con me a difendere la ZAD in 2018, dove già il livello di violenza della polizia era altissimo, e dicevano lì che era anche raddoppiato, e la gente cadeva come delle chiglie. Ogni secondo scoppiava una granata offensiva, di quelle che avevano ucciso Rémi Fraisse alcuni anni fa. E diciamo, è stato un macello. Molte persone veramente ferite, ma pesanti. Quindi dopo questo, dopo la repressione dei gilets jaunes, che è stato tremendo, con 200 persone che hanno perso poi con il livello di violenza poliziesca al livello quotidiano dei rioni popolari immigrati. Tutto questo fa che c'è un poco una congiunzione di fatti. Dal 2016, dal movimento contro la lei sul lavoro, un movimento al quale hanno partecipato molti ragazzi dei collegi, tra i quali molti figli di emigrati arabi, Dal 2016 c'è sempre stato un movimento di protesta in Francia. Poi c'è stato l'Azad de Notre-Dame-des-Landes, poi c'è stato a Marsiglia il casino dopo i nuovi morti della Rue d'Aubagne, poi ci sono i Gilets jaunes, poi c'è stato il movimento contro la lei per la pensione che di 62 va a passare a 64, poi c'è stato queste azioni pubbliche del soulèvement de la terre contro diversi progetti ecomostruosi, contro alcune imprese capitaliste che stanno rovinando proprio la pianeta. E qui stiamo parlando di azioni con migliaia e migliaia di persone, eh? Non è un piccolo gruppuscolo di ecologisti radicali, è veramente un movimento di massa. Io conosco alcune persone che hanno partecipato, di cui non avrei mai pensato che sarebbero andati lì in situazioni dove si sa che la polizia va a essere veramente proprio dura. E poi arriva su tutto questo omicidio di Nahel, quindi c'è un background veramente caldo. Poi c'è tutto questo ritorno di esperienza. In Francia molta gente ci ha incazzato nero per qualcosa della legge sulle pensioni. È veramente il governo il più impopolare che ci ha avuto la Francia da 150 anni, da Napoleon III. Neanche De Gaulle in 68 era tanto impopolare. Poi è stato eletto con neanche 20% dell'elettorato. È stato eletto perché c'è questo gioco da quasi 30 anni di non lasciare il Fronte Nazionale entrare al governo, quindi... Però alla fine ha fatto una politica che la stessa politica che avrebbe fatto il Fronte Nazionale. Et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, l'ébullition, la rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. Penso che una parte della popolazione potrà passare proprio con i fascisti, questo è chiaro. Un'altra parte va a passare con noi. E l'ambiente generale in Francia, sì, è veramente alla ribellione. Ci sono parecchie tipi di protesta che più o meno si stanno cercando tra di loro. Non è che Francia sia tanto ammirabile rispetto ad altri paesi, solo che forse c'è un po' più di situazioni conflittuali. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain, Inch'Allah. À la veille d'une révolution, j'ai spirituel, rage du peuple, l'armée à la rue, pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle la populace, et la rage est énorme. Bene, come ho detto all'inizio, per chi lo vuole c'è una stampata del testo di Alessi dell'Umbria. Bon, Agostino, vai. Questa volta è stata diversa. Questa volta è stata diversa. Non è la solita ciclica rivolta delle banlieue. Ricordiamo che la prima è ormai di 40 anni fa, perché la prima grande rivolta è dell'80-81, poi ne è seguita un'altra violentissima nel 91 e poi il 2005-2006. Questa volta è diversa. Questa volta è diversa un po' per i motivi che rievocava Alessi dell'Umbria. No. Prima di tutto per l'estensione della rivolta, la rapidità e la violenza che è stata espressa. E anche perché rispetto al passato Ci sono stati dei fenomeni, per esempio il saccheggio, la distruzione degli edifici pubblici, che fanno veramente pensare. Non che queste cose non ci fossero state in maniera minore anche prima, soprattutto nel 2005-2006. Nel 2005 e nel 2006 aveva fatto scandalo il fatto che fossero stati attaccati anche degli edifici pubblici, in varie, per esempio scuole, palestre, luoghi di ritrovo. Anche se questa che i media dell'epoca avevano stigmatizzato con una sorta di follia autolesionista, per cui i giovani di banlieue distruggevano delle istituzioni che sorgevano nei loro stessi quartieri. In realtà poi, attraverso un lavoro di intervista sociologica, in particolare Laurent Muzzelli, che è un sociologo che aveva lavorato molto in banlieue e che aveva fatto un bellissimo libro dopo il 2006, in cui intervistava alcuni dei protagonisti della rivolta. E veniva fuori una cosa molto interessante che torna oggi, cioè che questi luoghi, diciamo, comuni, pubblici, erano stati attaccati in quanto simbolo di quello che il governo francese stava cercando di fare per, potremmo dire, indorare la pillola. Cioè, era stato individuato in queste strutture, come dire, un grande sforzo di contenimento preventivo, di una rabbia che aveva invece delle radici molto profonde. Come se i miliardi, perché poi il governo francese ha investito miliardi in banlieue, fossero stati destinati a delle strutture che servivano in qualche modo da intrattenimento. Il discorso era chiaro, non vogliamo dell'intrattenimento, non vogliamo avere la palestra sotto casa in cui andare a fare sport, ma vogliamo avere un livello di vita migliore e vogliamo soprattutto che venga soddisfatta quella promessa che è reiterata da generazioni e che non è stata mai veramente mantenuta. E qual era questa promessa? Cioè, fin da quando era stata, come dire, in qualche maniera strutturata la vita dei lavoratori migranti arrivati in Francia, a quelle che all'epoca erano le seconde, poi le terze generazioni, adesso siamo alle quarte, questa è la rivolta della quarta generazione, no? In cui i protagonisti sono molto spesso minorenni. La promessa dello Stato francese era stata questa: voi vi adattate alle nostre leggi e costumi, diventate francesi. Se volete, praticate i vostri usi, le vostre religioni a casa, ma quando si tratta della dimensione pubblica, voi diventate francesi, per cui frequenterete le scuole francesi, parlerete francese, e noi vi promettiamo che cosa? Vi promettiamo una vita migliore di quella vita di sacrifici e di stenti che hanno fatto i vostri genitori come lavoratori migranti. Questa promessa non è stata mantenuta. Questa promessa non è stata mantenuta. Perché non è stata mantenuta? Perché sono cambiate le caratteristiche di fondo della società francese e delle società europee. Già negli anni Ottanta era evidente che le società del pieno impiego andavano per piano dissolvendosi, e allora la promessa rivolta alle seconde generazioni: statevene buoni, francesizzatevi per quello che riuscite e potete, avrete delle case migliori, degli HLM, dell'edilizia popolare storica, avrete un lavoro migliore dei vostri genitori. Beh, è andata completamente disattesa. Qui, secondo me, le radici appunto di una rabbia che cova da decenni, anche se, come dicevo in apertura e come diceva anche l'intervento che mi ha preceduto, questa volta è diverso, perché non c'è soltanto il portato di questa rabbia vecchia, di questa rabbia ormai che si è andata stratificando nei decenni, ma c'è anche la sensazione che sia impossibile cambiare gli assetti esistenti se non appunto ricorrendo a degli strumenti estremi. C'è un libro, da poco è stato tradotto in italiano, non ricordo neanche il titolo italiano quale sia, di Joshua Clover, intitolato Strike, Riot Strike, nell'edizione originale, in cui questo studioso di rivolte, un po' letterato, un po' sociologo, eccetera, ha sostenuto che la rivolta e il riot violento col saccheggio, con la distruzione, hanno nel contesto contemporaneo preso il posto di quello che era nella tradizione del movimento operaio, lo sciopero di massa, lo sciopero generale, lo sciopero politico di massa. Tesi, per certi versi, azzardata, criticabile, un ritorno, direbbero i vecchi marxisti, di posizioni lussemburghiane, però qualcosa di vero in questa riflessione evidentemente c'è, anche perché quello che è successo in questi giorni in Francia ha, come dire, un'affinità di famiglia con quanto è successo anche altrove in Europa nell'ultimo decennio. Pensiamo a una questione spesso sottaciuta o di cui non si è parlato abbastanza, i riot di Londra del 2011, che hanno avuto appunto caratteristiche molto simili a quelle francesi degli ultimi anni. E qui di nuovo mi sembra che ci sia qualcosa, un filo comune che tiene insieme quello che è avvenuto con la vicenda dei gilet gialli e con la vicenda della rivolta contro l'innalzamento dell'età pensionabile. E come dire, come se ci fosse un magma incandescente, una massa fluida pronta ad accendersi di volta in volta per manifestare una negazione di condizioni di disagio, di condizioni di malessere, cui risulta sempre più difficile sottrarsi. E questo va al di là anche della vicenda francese, in cui certo contano anche tutta una serie di vecchi fattori. Io mi ricordo già nel 2005-2006 non ero molto d'accordo con chi leggeva la rivolta soltanto in chiave coloniale. Ecco, questi si vendicano di quello che è stato loro fatto, eccetera, eccetera. Probabilmente questa è una delle componenti di quello che avviene, però insomma quando ci sono stati i riot e i saccheggi a Londra nel 2011, chi si muoveva non erano soltanto i giovani delle minoranze, ma erano anche giovani bianchi impoveriti dalle periferie. Per cui l'impressione è che, come dire, ci sia un sommarsi di motivi e di temi cui non si possono dare, delle risposte ragionevoli, no? Quando la polizia interviene con metodi sempre più duri, questi fucili che sparano queste palle di gomma che sono palle da golf praticamente, no? Ricordava Alessi, che ci sono state 200 persone accecate da questi fucili che sparano proiettili di gomma. Beh, lì vuol dire che siamo ormai a strumenti di contenimento estremo della rivolta di piazza, e strumenti che, come dire, hanno molto a che fare, poco a che fare anche con la civiltà giuridica europea, se vogliamo, no? Per cui questa radicalizzazione della polizia, anche qui bisognerebbe fare un lungo discorso su quello che è sempre stata la polizia in Francia, che la polizia francese è sempre stata più dalla parte dello Stato che da quella del cittadino, se poi ci sono state delle polizie in qualche modo dalla parte del cittadino. Però c'è una prevenzione, diciamo, di tipo razzista nella polizia francese, che è stata più volte analizzata, studiata anche da inchieste etnografiche che hanno mostrato qual è la mentalità dei poliziotti che operano in banlieue. Addirittura ci sono corpi speciali che operano in banlieue, che sono proprio selezionati in base alla loro capacità di intervenire in maniera dura, in maniera spietata. Per cui quello che ci troviamo di fronte è sicuramente un orizzonte di conflitto che è destinato a permanere, anche se ora si può forse pensare che la rivolta sia in parte rientrata. Però date queste caratteristiche di fondo, è difficilissimo pensare che non si riaccenderà una nuova fiammata di qui a breve o a medio periodo. E questo perché, voglio dire, non lo dico io che sono un sociologo modesto e curioso, ma un lungo editoriale di una decina di giorni fa sul Deutsche Zeitung, per cui, come dire, il giornale, uno dei giornali della socialdemocrazia tedesca, diceva che viste le condizioni di fondo di organizzazione della società francese, l'andamento dell'economia e via dicendo, è difficilissimo pensare che possano essere introdotti dei correttivi da parte dello Stato e del governo alla situazione attuale. Per cui quello che possiamo immaginare verrà fatto è inasprire le operazioni di contenimento, di prevenzione, di circoscrizione dei focolai di rivolta. Ma anche qui, lo diceva molto bene Alessi, no? C'è un problema gigantesco, perché non è più Parigi o Marsiglia che si accendono, ma se uno guarda la mappa degli scontri è impressionante, perché l'intero territorio francese è stato interessato da queste violenze. E allora, come dire, sotto la cenere covano veramente delle branche importanti. E vengo rapidamente a un'altra questione, Nanterre, no? Cosa c'entra questo discorso che stiamo facendo con il librino su Nanterre di Abdelmalek Sayad? Beh, a Nanterre è successo qualcosa che è difficile spiegare, è difficile rievocare. Per quasi 15 anni, forse 20 quasi, a Nanterre, nella periferia di Nanterre, cioè, quindi, a 30 km dalla civile Parigi, no? Nei primi degli anni, finire anni 50, primi anni 60, c'è stata una bidonville, di baracche autocostruite, un vero e proprio slam terzo mondiale, e in questa bidonville vivevano immigrati legali che lavoravano nelle fabbriche della zona. Erano immigrati che lavoravano nella Simca, che lavoravano nelle fabbrichette dell'indotto automobilistico, mi ha lasciato marcire per 20 anni in baracca autocostruite. Questi operai erano quasi in buona parte di origini algerine e nordafricane. E il libro racconta appunto l'odissea di chi ha campato 20 anni in queste condizioni. E c'è un passaggio molto bello, molto drammatico, in cui l'autore a un certo punto chiede a uno degli ex abitanti delle bidonville, che poi furono in buona parte sanate tra il finire degli anni 60 e i primi anni 70, spedendo la gente a vivere negli appartamenti degli HLM che nel frattempo si andavano vuotando, perché questa edilizia popolare francese era stata inizialmente concepita non solo come un'edilizia operaria, non solo come un'edilizia per gli operai, ma era stata concepita anche come un'edilizia per i ceti medi, quadri di fabbrica, impiegatucci, eccetera. Che cosa è successo poi? Che già verso metà degli anni 70 questi hanno cominciato a scappare, andandosi a costruire villette nel periurbano francese, e allora sono liberati dei posti che pian piano sono stati dati a queste famiglie algerine. Ma alla domanda appunto dell'autore di Sayad, perché non vi siete mai ribellati a queste condizioni, premetto che Sayad non era, era un grandissimo sociologo studioso dell'immigrazione, ma non era un uomo di sinistra, non era un comunista, ha sempre avuto un orientamento di liberalismo aperto, eccetera. Alla domanda perché non vi siete mai ribellati a queste condizioni, uno degli algerini rispose: una volta ci abbiamo provato e avete visto com'è finita. E alludeva, alcuni di voi lo sapranno, alla terribile giornata del 17 ottobre del 1961, in cui una manifestazione di algerini a Parigi che protestavano in favore del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, era in corso la guerra di Algeria, fu repressa nel sangue con centinaia di morti buttati nella Senna, no? Non si è mai arrivati a un conteggio esatto degli algerini uccisi dalla polizia nel corso di quella manifestazione. Per cui, come dire, Nanterre, il fatto che il fuoco riesploda a Nanterre, ha anche il significato del tornare gli antichi odi, gli antichi rancori. Probabilmente i nonni o i bisnonni di Nael vivevano nella bidonville, no? Perché Nael era di origine algerina. E allora, come dire, un legato, un passato che torna, un passato irrisolto, un passato terribile che torna e si ripropone in tutta la sua asprezza, no? In tutta la sua asprezza. E forse un'altra questione che è importante è quella dei richiami a George Floyd. Come voi sapete, George Floyd fu ucciso dalla polizia negli Stati Uniti in circostanze drammatiche, e la sua morte provocò tutta una serie di rivolte che lungamente hanno attraversato quel paese. Ora, ci sono, come dire, analogie e differenze. Analogie in quanto anche Floyd muore, come dire, a un controllo di polizia, no? Muore a un controllo di polizia, però in una organizzazione delle città americane che è in buona parte diversa da quelle europee. Cioè, Floyd viene ucciso su una linea di confine invisibile. Ci sono nelle città americane questi grandi ghetti Black e Latinos da cui bisogna evitare di uscire, no? e chi viene trovato fuori luogo, qualunque età abbia, qualunque la sua condizione, è suscettibile di una repressione violenta da parte della polizia. Per cui ci sono delle analogie forti con il caso di Nair. Però ci sono anche delle differenze. E quali sono queste differenze? Nel senso che il ghetto americano, il ghetto dell'Inner City americano, è un ghetto estremamente compatto, estremamente concentrato, in cui la presenza delle minoranze è altissima. E sono anche ghetti molto chiaramente circoscritti dal punto di vista proprio spaziale e territoriale. La banlieue invece non è così compattamente etnicizzata e soprattutto negli ultimi anni è stata soggetta a importanti trasformazioni. Non voglio farla troppo lunga perché poi... però è importante tener conto del fatto che quello che è Parigi, quello che è Le Grand Paris, quello che è la grande area metropolitana parigina, è andata estendendosi enormemente negli ultimi anni, per cui la periferia della città non è più, e lo diceva Alessi prima, no? Non è più soltanto o limitatamente la banlieue vicina, la banlieue proche, no? Ma è una banlieue che ormai si perde, arriva quasi all'aeroporto di Ryanair, no? Qualcuno che è stato a Parigi con Ryanair sa che si arriva, si atterra a Beauvais, no? Un posto che è a 70-80 km dal centro, poi bisogna andare col pullman che ti porta a Saint-Marie-des-Anges, no? Per andare in centro. E tutto, e mentre invece pezzi di quella che era la banlieue storica sono diventati quartieri buoni, sono gentrificati per usare il parolone, per cui è tutto molto più sparpagliato, molto più confuso, che nel, molto più mescolato di quanto non sia. La stessa Montreux di cui parlava Alessi è anche delle zone buone dove stanno studenti con qualche soldo in tasca che sono pian piano scacciati dal centro per i costi degli affitti sempre maggiori, per cui in realtà è una situazione molto più mista. E allora le affinità probabilmente riguardano più i sistemi di controllo e di gestione del controllo poliziesco dei territori che non le situazioni sociali che stanno dietro. E però proprio questa nuova mescolanza, questa nuova stranissima periferia, grande periferia metropolitana, è anche il luogo in cui nascono proprio i conflitti, nascono proprio i conflitti. E qui forse è anche lo spazio dove possono darsi delle ricomposizioni tra anime diverse di questa conflittualità. Naturalmente sono processi che non si consumano nel giro di qualche mese o di qualche anno, ma possiamo facilmente pensare che, come dire, che la Francia sia il luogo in Europa in cui oggi con più forza si sta palesando una nuova questione sociale europea a cui i governi di orientamento neoliberale non sono in grado di dare una risposta. Grazie. Adesso vediamo se riusciamo a collegarci con Sandro. Nicola, ci senti? Sì, sì, sento. Mi senti? Sono qua. Vai, vai, comincia. Ho ascoltato Agostino, sono assolutamente d'accordo con loro sulle analisi che sono state fatte da loro. E se posso aggiungere qualcosa, si è parlato di Montreuil. Io vivo a Montreuil da 20 anni, e che è una banlieue, si chiamava la Petite Ceinture Rouge, appena fuori da Parigi, la prima cerchia di banlieue rossa, da 1936 in mano ai comunisti. e lo è ancora in larga parte, perché è sempre stata proletaria. Adesso si sta un po' alla volta gentrificando, ma resta popolare, e si è visto in questa settimana di rivolta generalizzata tutta la Francia. Questo è nuovo rispetto alla rivolta delle bandiere, perché nel 2005 c'è stata tre settimane di rivolta dentro la Francia, però poco alla volta, e non era dispersa come adesso a fine giugno 2023, perché la cosa maggiore che è successa a fine giugno 2023 è che in 2 o 3 giorni la rivolta sociale, antirazzista, anticapitalista, contro la violenza poliziesca si è estesa in tutta la Francia. Anche Le Monde ha pubblicato delle mappe dei tumulti, io lo chiamo rivolta, a fine giugno 2023, e le piccole cittadine, qualche 3.000 abitanti, hanno conosciuto scene di riots, incendi, attacchi di commissariati, cioè in tutte le cittadine, grandi o piccole, in cui da 40 anni, 50 anni hanno costruito delle case popolari fetide, insopportabili, cioè case alla pan, si dice in francese, cioè gabbie per conigli o per polli, invivibili, in cui si deve andare a fare il barbecue sul campo davanti all'immobile di 20 metri, di 20 piani, in cui non c'è niente, non c'è un servizio, non c'è un cazzo. La presenza dello Stato è la polizia tutti i giorni, l'unica presenza dello Stato è la polizia, per cui la gente è normale che gente che è povera, che vive in condizioni disastrose, e che i genitori, i nonni, i bisnonni hanno sopportato di lavorare a Renault e in altre fabbriche per costruire il benessere francese, cioè, e hanno sofferto e se la sono mangiata. E beh, i giovani adesso non sopportano più, non vogliono più e hanno perfettamente ragione, evidentemente hanno perfettamente ragione, e si rivoltano. Dopo di cui c'è la scintilla che mette di fuoco la batteria, l'omicidio, l'assassinato di Nael, di 7 anni, da parte di un poliziotto, in maniera, insomma, non ci sono neanche aggettivi da mettere, mette di fuoco le polveri. Ed è assolutamente normale. Quello che è nuovo, perché le rivolte nelle bandiere, da quando sono in Francia, da 40 anni, ce ne sono state un sacco, più o meno forti, e lì quello che è successo è che è stato dirompente, e in 2 o 3 giorni si è esteso in tutta la Francia, la minima cittadina in cui sono state costruite delle cité, che si chiamano in francese, delle alloggi popolari per mettere gli operai poveri e fondamentalmente immigrati arabi e neri, e beh, si sono rivoltate in questa cittadina. E c'è il caso che hanno messo in exergue, in emblematico, l'Aile Rose, che è a 20 km fuori da Parigi, cittadina di 40.000 abitanti, che costruita negli 30, con villette di ricchi che si spostavano da Parigi, loro villetta con il suo giardinetto, il cazzo, tutto. E va, però il 20% degli abitanti vivono in case popolari, e va. E va, che sono oppressi, che il municipio si occupa di quelli che abitano, che vivono nei loro pavilloni, nelle loro villette, e hanno paura dei poveri che vanno in moto, che non prendono i coglioni. e sono vendicati, perché questo è, perché cioè, la ragione fondamentale per cui si rivolta la gente è che sono umiliati e non ne possono più di essere umiliati, essere oppressi, di non avere soldi, e dopodiché i borghesi scandalizzano che i rivoltosi, che sono adolescenti giovani, fanno dei saccaggi e rubano i telefonini d'Orange e rubano i supermercati, cose di più normale, cioè, si è visto da sempre. Quando le popolazioni oppresse sono rivoltate, la morale dov'è? Dov'è la morale? Cioè, e chi fa la morale? E chi fa la morale? È indecente fare la morale a chi non ha, deve comprare le sigarette, giovani che comprano la sigaretta al casolino, all'unità, e rubano le stecche sigarette da un tabaccaio. Dov'è l'indecenza? L'indecenza è che dei giovani non possono avere un pacchetto di sigarette in tasca, questa è l'indecenza, non che non ne possono più, vanno a rubare le stecche di sigarette. Lì è una questione fondamentale. A Monterey si è parlato, Alessi e Agostino ha parlato di Monterey, io vivo a Monterey. Lì io sono tornato dopo, ero in Italia, ero alla Calusca, è stato il 30 giugno, e sono arrivato dopo, purtroppo. Ma Monterey ho seguito per strada cosa è successo. Il centro commerciale del municipio di Monterey, lato, c'è tutto distrutto, però il teatro di Monterey, il cinema di Méliès di Monterey, i piccoli negozi del centro città non hanno avuto nessun problema. Ma tutte le insegne capitaliste, tutte distrutte. E ho visto poi i rivoltosi tornando su da Marie di Monterey, qua adesso ho il centro di Monterey, verso casa mia che abito nell'Alto Monterey, si dice, dove sono tutte le città dei poveri, e hanno fatto barricato tutti i 100 metri, si vede sull'asfalto, e hanno saccheggiato, sono saccheggiato i capitalisti, il tabaccaio dove vado io vicino a casa, ed è vicino a uno dei licei che da 30 anni è uno dei licei rivoltosi di Monterey, e mi è stato risparmiato. Non è un caso sicuramente, cioè c'è una logica, è insopportabile parlare di violenza nihilista, che i giovani saccheggiano, no? E ho scritto l'articolo sulla mia Matan dicendo perché ci sono delle scuole che sono state incendiate. Perché? Nihilismo? No. Penso che chi ha incendiato queste scuole è stato umiliato. Gli hanno detto, ma tu parli arabo, devi parlare francese. Gli hanno detto, ma tu devi venire vestito in modo adeguato, eccetera, eccetera. E a 14 anni non ho neanche finito la scuola media, d'accordo? E per cui si è vendicato. E cosa di più normale? E questa è la rivolta. La rivolta è istintiva la rivolta, e ti rivolti contro chi ti ha umiliato, contro chi ti ha oppresso, contro chi ancora vuole farti del male. E questo è normale. È evidentemente impossibile queste cose capirle da parte della borghesia, che loro hanno la loro morale facile, perché loro non hanno problemi a comprare un pacchetto di sigarette, non hanno problemi a fare la spesa. E per cui si scandalizzano perché sono i supermercati che sono stati saccheggiati. E lì è una guerra di classe, è una guerra di razza, una guerra di persone che sono razzizzate, in francese, che sono discriminate perché sono considerate appartenenti a altre razze. Cazzate. orribili. E sono francesi, chi si è rivoltato? I 4.000 arrestati in una settimana, dicono età media 17 anni, la maggioranza neri e arabi. Beh, dice lunga, cosa? Beh, si rivoltano, è perfettamente normale. Questo è l'assunto. E quello che sta succedendo in Francia, poi lo Stato è stato, non è riuscito nei primi giorni, perché era talmente la rivolta estesa in tutti i piccoli posti, piccole cittadine di Francia, che non è, con tutta la polizia non sono riusciti a, e poi hanno messo una massa di poliziotti, gendarmi, eccetera, in atto, perché sono riusciti a bloccare la rivolta. La rivolta si è bloccata, ma non è finita evidentemente, perché le ragioni della rivolta restano lì, e cosa dire di più? Non so, qualcosa che è interessante da notare è questa confluenza che non è voluta, da partiti o gruppi politici. Cioè, da anni e anni, da quando sono in Francia, che partecipo a tutte le lotte possibili. E beh, c'è questa volontà di militanti destra e sinistra, insomma, della confluenza delle lotte. E si è tentato da anni confluenza delle lotte dei ferrovieri, dei postieri, degli operai delle raffinerie, gli operai che hanno un potere di nocività rispetto ai capitalisti, grandi imprese, eccetera. E confluenza con i proletari, studenti in lotta, e con le lotte delle banlieue, dei giovani e non giovani, connotati arabi e neri. Ed è una cosa difficile, ma che abbiamo cercato di fare. Se c'è Vittorio lì, lo sa. Nel 2017 avevo cercato di fare in modo che il corteo di testa, che si chiamava, fosse appunto connotato arabi e neri, per cui abbiamo discusso con i flic al culo che ci controllavano, di dare il corteo di testa al comitato d'Aman, a Satoré, ad Aman, e con Youssef Bracani, che ha pubblicato un articolo giusto su Rivoluzione Permanente ieri. E cosa hanno fatto? Cioè, perché questo è il problema. Cosa ha fatto Youssef Bracani e il Comitato d'Aman nel 2017? Abbiamo lasciato la testa del corteo a loro, e hanno messo in testa del corteo rapina sul corteo di testa. Cioè, non è stata una rapina. Eravamo noi che avevamo lasciato il conto di testa a loro. Vedete? Ed è un problema questo della confluenza dei rivoltosi, degli insorti, perché ci sono delle identità difficili da mettere insieme, cioè ci vuole tempo. Però, appunto, non sono i politici, i militanti che fanno in modo che le confluenze delle lotte si fanno, è la gente, perché la confluenza delle lotte, io ho visto in questi ultimi anni, la confluenza delle lotte si fa perché quelli che sono a scuola media, nei licei, all'università, studenti, si frequentano tra neri, arabi, bianchi, gialli e quello che vuoi. E nelle fabbriche uguale, ci sono neri, arabi che si confondono con i bianchi, è così che si fanno le relazioni, ed è così che si fa la congiunzione delle lotte, perché diventa normale. Non sono i gruppi, sono i teorici che danno, è il popolo che si fa da solo. E io Seguo il popolo, lo seguirò sempre. Comunque farlo. Grazie Sandro. Con i Giregione a rubare. I Giregione, proletari, gli ultimi dei proletari francesi, poveri, che si venivano a Parigi in cinque in macchina, portandosi i panini, eccetera, perché non avevano soldi. E beh, i Giregione, noi ci siamo messi autonomi con i Giregione subito. Alcuni, non tutti, altri hanno aspettato un mese o più. C'è questa congiunzione, io mi sono messo in Giregione subito, cioè sono come voi e vi seguo. Questo è il principio, bisogna seguire le rivolte del popolo, perché è lì che c'è la ragione. Grazie ancora. Allora, abbiamo sentito all'inizio Alessia, adesso potremmo sentire Savoglia l'Alessia, che è stata nei giorni scorsi a Marsiglia e può raccontarci un po' di cose. Vieni, vieni. No, vieni il micro. Ti cedo volentieri la sedia. No, vabbè, mi sentite? Ok. Io in realtà non sono stata a Marsiglia pochissimo, non ho partecipato a nessuno dei momenti di rivolta che sono accaduti nelle ultime settimane, quindi non mi sento di dare un resoconto magari di quelle giornate, non sarebbe neanche diciamo corretta la narrazione che posso dare, dal momento in cui io non vivo in quella città, non mi trovo ad osservare in prima persona come compagna sicuramente degli avvenimenti di rottura come quelli che sono avvenuti. La cosa che essendo andata poi in realtà nel momento in cui queste rivolte sono cessate, la cosa che ho provato a fare è cercare uno scambio di riflessioni con i compagni che appunto si trovano nella città di Marsiglia, cercando un po' di capire, diciamo, portare, no, alcuni elementi che possano essere anche un po' di riflessione per noi che ci troviamo da quest'altra parte in Italia. Quindi poi secondo me tantissime cose sono state dette, è stato dato un piano e una fotografia, no, anche su quella che è la situazione in Francia, sicuramente degli ultimi anni, facendo anche riferimento molto a quella che è stata l'esperienza del 2005, no, e quindi a quelle rivolte che sono avvenute in quel periodo preciso, dove io ad esempio ero troppo piccola e quindi non le so nello specifico, se non attraverso letture o comunque racconti. Sicuramente poi anche tutti gli accenni o collegamenti su come si sono evolute, no, le situazioni di strada o di rivendicazione nelle lotte che poi si sono susseguite negli anni, come quelle che sono state citate, le più emblematiche, che tanti compagni poi a cui hanno partecipato, tra cui sicuramente i Gele Gialli e la riforma delle pensioni. Quindi sicuramente ci sono degli elementi che potrebbero essere interessanti anche un po' in un'ottica non mi sento di immergermi in delle analisi o riflessioni anche con uno spaccato sociologico su come possano poi riscoppiare, no, delle future rivolte o dei collegamenti. Mi piaceva il discorso, che credo sia interessante quello, no, di un collegamento, di convogliare delle lotte diverse che si stanno comunque, riscopriamo anche delle affinità, no, sicuramente nelle pratiche, non so come poter dire. non lo so, io mi sono segnata delle questioni, poi c'è una questione che vorrei discutere perché non so se mi trovo totalmente d'accordo, o comunque forse non ho un'idea io personalmente chiara su il piano anche delle, diciamo un po' più rivendicativo, ecco, o comunque di cosa spinge ad una rottura, e quindi magari ci ritorno. Volevo dare due elementi che secondo me sono interessanti. Uno riguarda anche la modalità, la spazialità con cui sono avvenute queste rivolte, anche poi in relazione a eventi passati come potrebbero essere quello della rivolta delle Balie del 2005, in cui comunque appunto si vedono si vede un po' un cambiamento, no? Si vede questa forza un po' magari anche centrifuga nel centro delle città, quando mentre, poi se sbaglio ditemi, in cui rimanevano all'interno, no, di quelle che erano i quartieri periferici della città. Infatti abbiamo visto che mi raccontavano i compagni Marsiglia, dove anche nell'intervento iniziale veniva detto che Marsiglia è stata una delle città dove sono avvenuti i maggiori saccheggi, espropri in relazione a tutte le altre città di Francia. A Marsiglia poi mi dicevano che diciamo, le rivolte sono iniziate con un giorno di ritardo a confronto delle altre città, è diciamo, arrivata dopo. La prima chiamata è stata da parte del, diciamo, del movimento con un presidio di fronte alla prefettura. Dopo questo momento iniziale, ad esempio, si sono poi susseguite tutta una serie di chiamate che provenivano dai social, che davano degli appuntamenti in delle zone della città dove potersi trovare e poi per partire in queste manif. Quindi diciamo che già viene un po' a galla, no, la questione anche di come avvenivano le comunicazioni. I social hanno ricoperto un ruolo importante su come richiamare i momenti di concentramento per poi appunto partire nelle varie zone della città. Sono stati utilizzati moltissimo i canali come sicuramente Instagram o TikTok, che sono appunto dove venivano richiamate queste giornate. Questo aspetto qua che troviamo, no, su come essere in piazza, su come ritrovarsi, anche che secondo me rientra anche un po' in quello che è, diciamo, l'ambito della spettacolarizzazione un po' della rivolta, del riot. Le persone comunque si riprendevano mentre accadevano determinate cose, e quindi questo è già un aspetto che potrebbe essere interessante e che magari anche un Debord un pochino ce lo aveva già accennato. Quindi questa roba sicuramente interessante, e dall'altra parte è anche la risposta da parte dello Stato di fronte all'utilizzo dei social, anche perché appunto a un certo momento erano arrivate delle direttive da parte dello Stato di interrompere in certe zone specifiche della Francia l'accesso ad internet. D'altra parte questo un pochino è, diciamo, anche da un lato, se concedetemelo, è contraddittorio, dal momento in cui poi lo stesso mezzo è utile per far sì che possano poi essere identificati, geolocalizzate le rivolte che avvenivano, anche se poi comunque stamattina, infatti ve lo consiglio, è uscito un podcast su Radio Blackout della trasmissione Bello come una prigione che brucia, che tratta ad esempio proprio delle forme repressive, hanno discusso molto su quelle che possono essere e quelle che sono state poi attuate come forme repressive di fronte a dei movimenti di rivolta che sono avvenuti. Comunque un elemento che secondo me era interessante, poi magari se ne discute, era quello dell'utilizzo dei social per richiamare dei momenti di piazza e come poi la repressione subentra per far sì di limitare diciamo questa possibilità di concentrarsi. Un'altra cosa che credo è stata interessante se dai racconti relativa a quelle che noi diciamo categorizziamo e definiamo saccheggi. Sicuramente sono stati saccheggi nelle zone centrali della città e non solo, riguardanti dei luoghi simbolici del capitalismo, quindi ci sono stati espropri di supermercati anche dove gli stessi rivoltosi lavoravano, come diceva il compagno all'inizio, e sono stati anche attaccati quelli che sono i simboli della Repubblica, della Francia, soprattutto in questo momento storico dove penso sia da prima, ma con il conflitto russo-ucraino, diciamo che Macron ha portato avanti anche un po' una narrazione di economia di guerra o comunque di politiche che possono essere associate a una dialettica relativa ad uno stato di guerra. Su un piano più sociale, lo vediamo in un piano welfaristico, dove sicuramente l'abbiamo visto con la riforma delle pensioni, la questione della disoccupazione o il reddito francese. Poi io non mi voglio troppo impegalare su questa cosa perché non ne so davvero molto e non vorrei essere superficiale su certe questioni che non conosco. Comunque c'è stato un po' un cambio di registro su quelle che sono le politiche welfaristiche. D'altra parte poi invece ci sono anche degli aspetti relativi a questa nuova proposta di legge che rimane ancora lì sul tavolo discussa, perché che ne avevamo poi discusso la scorsa volta quando si era fatto un incontro qua relativo alla protesta contro la riforma delle pensioni, che è la reintroduzione della leva obbligatoria per 2 anni in una fascia d'età dai 17, se non sbaglio, 16-17 anni, che all'oggi rimane più su un piano, no, di volontario, ma che comunque è in fase di discussione. Questa cosa implica poi anche una serie di incentivi per tutte quelle scuole che hanno degli alunni che partecipano poi alla leva obbligatoria, daranno degli incentivi, e quindi questo porta anche, no, ad uno stretto rapporto tra quello che sono le istituzioni in tema di educazione e formazione e quelle che sono poi le politiche sicuramente di guerra o diciamo relative anche ad una forma di nazionalismo che da quanto pare i compagni sentono e vedono in terra francese. E quindi c'è anche questo aspetto qui, sono state attaccate anche delle scuole in quanto simbolo appunto di una formazione, educazione specifica a delle politiche che stanno venendo messe in atto. Questi sono anche altri elementi che mi sono stati dati. Un altro aspetto interessante è anche sull'utilizzo che poi l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato, ne parleremo poi nelle prossimi giorni, tra cui immagino anche settimana prossima qua, di fronte a quelle che sono le misure repressive che la controparte mette in campo per far sì che i momenti di rivolta e di rottura possano essere il più possibile circoscritti o comunque limitati attraverso queste famigerate armi non letali che sono appunto, ne abbiamo parlato diverse volte, le flashball o comunque queste granate stordenti che allontanano le persone o comunque cercano poi di creare poi una dispersione. Sono le stesse armi che ad esempio a Marsiglia un ragazzo durante le rivolte è morto per un... in quanto gli è stato attaccato da una flashball mentre era in motorino. Io ho partecipato ad un corteo che è avvenuto in una zona centrale di Marsiglia, che è finito diciamo verso la stazione, dove appunto si discuteva della situazione e della, anche appunto in risposta, no, a questa morte che è avvenuta e che non ha avuto sicuramente lo stesso impatto o comunque la stessa risposta, anche per a quanto mi dicevano, anche per volontà della famiglia di Mohamed, questo ragazzo che è morto durante le rivolte, in quanto la situazione è molto, anche per le famiglie, è abbastanza complicata. Infatti è interessante vedere come la composizione, già l'avete detto, è estremamente giovanile e giovanissima, no? Che si muove di fronte a queste rotture, che poi potremmo anche addentrarci su una questione anche proprio di su un aspetto culturale identitario che sicuramente non viene riconosciuto in Francia. Quindi l'utilizzo sicuramente di armi dette non letali, che l'abbiamo viste, sono state usate anche in proteste precedenti, hanno avuto una massima rappresentazione anche con la questione di Sansolin, e quindi questo potrebbe essere un'altra questione. In totale, da qua, ne parlava prima, sono stati, no, se non sbaglio, sui 4.000 stati fermo in tutta la Francia. Ci sono stati 380 arresti, leggevo. Una particolarità è anche relativa nei confronti dei minori, ovvero che lo stato di fermo per i minori dovrebbe essere relativo a 4 ore in Francia. In questo momento, nei giorni delle rivolte, questi fermi sono saliti a 48 ore di garde-vous. Quindi anche questo è un po' un cambio di passo. Le persone sono accusate di furto in concorso, che è un reato stativo, se non sbaglio, e si procede anche per direttissima, quindi le persone sono già in carcere, stanno già scontando questa pena. Mi dicevano non è paragonabile, in quanto la storia di Vincenzo ce lo insegna, non esiste la devastazione e saccheggio in Francia, ma potrebbe essere un po' paragonabile su una forma di su un piano penale e giudiziario. Non lo so, io non riesco a dare degli spaccati e dei momenti, anche perché non credo, visto dopo gli interventi che ci sono stati, possano dare qualcosa in più all'interno di un racconto. Una questione interessante secondo me è la domanda di fronte a dei momenti di rottura, di rivolta che avvengono e sicuramente con delle caratteristiche specifiche, quale potrebbe essere il contributo dei compagni di fronte a degli avvenimenti che accadono in determinati luoghi, in determinati paesi. Questo è un aspetto che secondo me merita una riflessione, anche perché appunto ad esempio per quanto riguarda queste rivolte dettate da poi un'evidente rabbia. Io non, la cosa che infatti, scusate, sono un po' confusionaria, però la cosa che mi stonava o comunque vorrei capire maggiormente è anche quello sul piano rivendicativo, nel senso, prima è stato detto viene portato avanti, no, anche un discorso antirazzista, anticapitalista, Sicuramente c'è un piano di discriminazione secolare comunque che va avanti da secoli nei confronti di porzioni numerose di società che si trovano sicuramente in delle zone esterne, estreme della città, della metropoli, che appunto vengono rappresentate nelle balie, però non credo che poi sia anche, no, non vedo, ecco, insomma, una rivendicazione precisa in queste forme di rivolta. Nel mio immaginario, nel mio vedere questi avvenimenti, le vedo più relative ad una questione di violenza strutturale che viene perpetuata da anni in delle zone della città, sicuramente relative ad un non riconoscimento di un'identità, ma faccio fatica poi a vedere una connotazione davvero in termini reali di anticapitalismo. Ma questa è una mia osservazione. Credo che comunque delle esperienze precedenti, come possono essere quelle dei gilet gialli o comunque delle proteste contro la riforma delle pensioni, abbiano anche dato un cambiamento a quella che è alla spazialità del riot, del conflitto in strada, che non rimane sicuramente all'interno dello spazio della balie e basta, ma si dirige verso il centro della metropoli o della città in cui avvengono, ma non riesco a identificare sicuramente una narrazione o comunque un discorso, forse non in termini radicali, di anticapitalismo, e quindi questa è una cosa che in realtà avrei voluto più che altro chiedere. Non lo so, penso di aver finito. Se mi vengono in mente delle altre domande, perché più che altro io avrei delle altre domande, perché sarebbe interessante, oltre che una fotografia, uno spaccato che sicuramente ha anche degli elementi sociologici. Questa sì, potrebbe essere una buona lente di interpretazione. Da parte mia sarebbe interessante capire anche qual è il contributo, qual è l'intervento che dei compagni con una prospettiva sicuramente rivoluzionaria possano poi cercare di inserirsi all'interno di momenti di proteste di rottura con un'intensità del genere. Thank you. Va bene. E qualcuno ha domande o considerazioni? La Marghe vuole raccontare qualcosa? Vieni, vieni. Posso parlare anche alta voce? No, che prima Agostino ha insistito un po' sul fatto che queste nuove rivolte abbiano degli aspetti di novità rispetto al passato, soprattutto rispetto a quelle del 2005-2006. Cioè, mi sembra da una parte abbastanza naturale, soprattutto quando ci sono dei cambi generazionali, no? Io un aspetto di novità che ho un po' notato, soprattutto per quanto riguarda, diciamo così, la ripresa da parte del mainstream mediatico, è stato questo terrore del contagio, che guarda caso ha ripreso anche un lessico che ormai è diventato dal 2001 in poi abbastanza appunto mainstream. Effettivamente volevo chiedere se questo aspetto qua potrebbe, visto che prima si è insistito anche sul fatto che questa conflittualità, soprattutto dovuta alla radicalizzazione del controllo e della securizzazione delle società e delle città, è crescente, questa conflittualità è destinata a permanere. Mi chiedevo appunto se questo spettro del contagio possa essere qualcosa di effettivo in un'Europa che di fatto sta sempre di più diventando una fortezza e sempre di più però è una società in cui le dinamiche di generazioni di immigrati diventano degli elementi importanti soprattutto nei contesti urbani. Effettivamente mi sento di portare un po' quello che è avvenuto in Svizzera, ci sono stati degli episodi di rivolta da parte di giovani, giovanissimi anche in questo caso in alcune città svizzere, soprattutto nella Svizzera romanda, a Losanna e Ginevra, in cui peraltro le dinamiche sono state molto simili a quelle che sono state descritte nell'intervento precedente, rispetto al connettersi attraverso i social, ritrovarsi attraverso modalità legate appunto all'utilizzo di questi strumenti, e quindi ecco, era un po' questo. Poi volevo anche tornare un attimo su un termine che ha utilizzato anche Alessi, che è sicuramente un termine molto forte e evocativo, che è quello di guerra civile, che però era già stato ripreso, in particolare mi sembra da Dardot e Laval, che ne avevano proprio parlato, ovviamente loro dal loro punto di vista magari marxista, rifacendosi al famoso scritto del 1871, ma che in qualche modo aveva a che fare con quello che anche prima si diceva rispetto al progetto di Macron e di questo neoliberismo che intende appunto dichiarare guerra aperta alle classi subalterne, e loro l'hanno scritto appunto commentando le proteste relative alla legge delle pensioni, quindi in qualche modo non dico che sia stato profetico, ma mi sembra che tutte le analisi dalle diverse componenti dei movimenti vanno un po' in questa direzione. Ecco. Ma, c'è un orizzonte di fondo che è un orizzonte europeo. In Italia non si percepisce fino in fondo quello che si sta muovendo un po' in tutta Europa. Regno Unito, durante dicembre del 22, si è praticamente fermato tutto. Scioperi di massa nei trasporti, nei servizi, nelle poste, cioè le infermiere che hanno scioperato, e il Regno Unito è stato bloccato praticamente per 3 settimane. La Germania ha conosciuto un periodo di scioperi di nuovo intensissimo tra marzo e aprile scorsi. L'Italia, per motivi che sarebbe complesso analizzare, per ora tace, no? Nonostante sia il paese in cui l'impoverimento di massa è stato più drastico in Europa, come voi probabilmente sapete, i salari ormai hanno subito nel nostro paese la riduzione più drastica di tutta l'Unione Europea. C'è, come dire, un orizzonte di fondo in Europa che è comune a tutta l'Unione, che è caratterizzato dall'impoverimento di massa e dall'aumento delle diseguaglianze sociali. Quanto questo sia da imputarsi a un clima di guerra, all'aumento della spesa, dell'investimento, del sostegno all'Ucraina, eccetera, questo è difficile dirlo. Diciamo che il trend era già questo prima che scoppiasse il conflitto. È chiaro che dover sostenere in maniera così economicamente importante un paese coinvolto nella guerra lavorante ha una ricaduta anche dal punto di vista di quello che è possibile per i singoli stati investire e reinvestire in servizi e in welfare. Sicuramente questo tipo di situazione di impoverimento è destinata a durare. Anche se i lavoratori tedeschi, per esempio, hanno vinto ampiamente con gli scioperi di massa che hanno fatto tra marzo e aprile, il recupero salariale è stato intorno al 7-8% per alcune categorie, cioè si sono ripresi quello che l'inflazione gli aveva levato, no? Cosa che qua non è successa. Anche nel Regno Unito sono stati costretti a aprire i cordoni della borsa e a mandare un po' di quattrini, almeno ai lavoratori dei servizi essenziali. In Francia qualcosina era stato dato, anche se, come dire, certo, non pari al recupero del potere d'acquisto perso con l'inflazione galoppante. Da noi invece abbiamo delle elemosine, no? Delle borse in spesa, dei bonus in spesa da poche centinaia di euro, i contributi ai più disgraziati sulle bollette, dati a pioggia, una tanto, eccetera, eccetera. Ma diciamo che in tutta Europa c'è un andamento che ti dico delle grandi crisi e questo andamento non è cominciato ieri, perché in realtà anche se nessuno lo ammette apertamente, noi viviamo ancora nel cono d'ombra della grande crisi del 2008, con poi il nuovo momento critico del 2012-2013. Per cui questa crisi economica è destinata a durare, è destinata ad approfondire le diseguaglianze sociali, ed è difficile capire che cosa ne uscirà, perché in realtà il grido della ragazza che parlava prima e che parlava appunto della sofferenza di un'intera generazione precarizzata, sottoposta a uno sfruttamento spaventoso, eccetera. Però non è ancora chiaro da che parte verrà una risposta. C'era un grande storico dell'economia, che è Károly Polanyi, era di origine ungherese, poi nazionalizzato prima in inglese, uno storico socialista legato al socialismo di base, al socialismo radicale, che negli anni che precedettero la Seconda Guerra Mondiale fece una profezia che io spero non sia destinata a ripetersi. Polanyi disse chiaramente: l'Europa esce dalle crisi in due modi, o a destra o a sinistra. e l'impressione che quello che sta accadendo sia che il rischio sia che nuovamente, ancora una volta, l'Europa essa della più destra, per cui con un rinfocolarsi dei nazionalismi e dei localismi, con delle proposte corporative, di soluzione corporativa dei problemi economici e sociali, e come dire, nell'estrema modestia culturale della coalizione di destra al governo, una prospettiva di questo genere ogni tanto appare, ma non è mai formulata chiaramente, perché non c'è nemmeno l'intelligenza della cultura politica per formularla chiaramente. Però che sotto sotto qualcuno pensi che la svolta può essere in quella direzione, guardiamoci insomma che il nazionalsocialismo nasce come socialismo nazionale. No? Il nazismo ha risolto il problema delle crisi economiche in Germania con un'economia di guerra, però il nazismo ha portato la disoccupazione a zero in Germania. Ha rimesso... Ma dopo, ma che vuol dire? Non è quello il problema. Qui stiamo parlando delle svolte politiche che si possono avere in una situazione di crisi. Poi, come dire, la storia non si ripete mai esattamente negli stessi termini o con le stesse caratteristiche. Possono esserci svolte nuove anche imprevedibili. Non dimentichiamoci che noi siamo nel paese che ha inventato il fascismo, no? Il fascismo europeo l'abbiamo inventato noi. Per cui non mi meraviglierei se la storia prendesse una piega, non naturalmente ripercorrendo quello che è già avvenuto, ma che può rassomigliare, richiamare gli eventi del passato. Questo non è detto che accada, perché invece possono esserci anche degli elementi diversi, degli elementi nuovi, e Alessio quando parlava di Marsiglia e lo stesso discorso sulla confluenza che veniva fatto da Sandro, era un discorso che diceva, vedete che qui ci sono anche delle forze che possono coalizzarsi e da cui può nascere una proposta politica radicale nuova, perché il problema poi è questo: può prendere forma nell'Europa attuale una proposta politica radicale, anticapitalista di tipo nuovo? Forse sì, no? Non è detto che le cose debbano andare nell'altra direzione. Naturalmente, perché questo avvenga, devono avvenire tutta una serie di eventi, devono essere ricostruite reti sociali e collettive, perché è vero che il riot, come dire, esaurisce probabilmente nel momento della violenza e della riappropriazione la propria propositività politica. Qualcuno, Alessio, prima parlava di rivendicazioni. Beh, certo, che la rivendicazione è proprio l'atto in cui tu dici voglio tutto, voglio le cose, voglio tutto quello che c'è nel supermercato. Quello è il momento della rivendicazione in se stessa. È anche il momento in cui tu però proponi un diverso assetto, una diversa organizzazione delle cose, no? Proprio perché metti in discussione tutto quello che è stato l'assetto precedente. Naturalmente, prima che questo diventi una forma qualunque di progetto politico organizzato, ci vuole tempo. Occorre ricostruire leti solidali, no? Occorre ricostruire legami tra le persone. E questo non è, a mio parere, immediatamente dietro l'angolo. Per cui quello che ci possiamo aspettare è riproporsi di questi momenti, magari con altri tipi di soggettività che emergono a accenderli, ma con, come dire, un processo molto lento di costruzione di un'identità politica forte, mentre invece i fatti sembrano precipitare in altre direzioni. Insomma, qua ci fanno ingoiare il fatto che è possibile, giusto ed è bello usare le bombe a grappolo nella guerra in Ucraina, per cui abbiamo anche così un precipitare degli eventi nel quadro politico planetario generale che ci fa pensare che i tempi per costruire reti, politiche, organizzazioni, eccetera, eccetera, non siano, come dire, i più favorevoli, soprattutto se si deve pensare a una strategia su tempi medio-lunghi. Poi io non ho la sfera di cristallo, per cui cerco semplicemente di mostrare quelle che sono, come dire, le potenzialità e i pericoli che sono presenti nella situazione presente. Allora, prima che viene giù il diluvio, ho un'osservazione da cui discende un'ipotesi, da cui discende una domanda. Tutti quanti quelli che hanno parlato hanno voluto sottolineare la differenza tra ciò che è successo in queste ultime settimane e ciò che per esempio è successo nel 2005 o negli anni precedenti. Questa cosa io penso che non si possa semplicemente ricondurre alla distribuzione territoriale o alla velocità con cui un fenomeno si è propagato, ma deve avere dentro, come dire, portare dentro qualche cosa di diverso, cioè non siamo su una questione geografica. Io l'ipotesi che farei, che mi pare anche abbastanza poi sostanziata e confermata da tutti gli interventi, tutti che mi hanno preceduto, è che protagonisti di questi fatti che riguardano non solo le banlieue ma le città, e su questo c'è un errore di riduzione nella intitolazione di questa serata, i protagonisti di questi fatti sono testimoni e interpreti di un radicale scollamento con la società che li circonda. Il livello di interlocuzione è nullo, il livello di rivendicazione non può che essere nullo. Il loro problema è farsi spazio in un mondo che li sta schiacciando. Prima tu parlavi della bidonville di Nanterre, dicevi loro lavoravano in fabbrica, sono quelli che lavoravano in fabbrica, questi non lavorano in fabbrica, questi presumibilmente sono disoccupati, precari o schiavi, e quindi la loro condizione è già di espulsi da una struttura sociale che li vede come un soprannumero. La possibilità di dialettizzare con questi è inesistente. In particolare si vede che protagonisti sono i più giovani, che in qualche modo hanno un futuro nullo davanti a loro, delle prospettive di futuro nullo ed un presente di miseria e di precarietà. Quindi non è solo una questione etica, morale, l'umiliazione, così, è una questione oggettiva di, come dire, scollamento. Su questo, allora, data questa ipotesi qua, la domanda che mi veniva era questa: che cosa succede nelle relazioni, quali sono le relazioni possibili, che cosa vuol dire il rapporto di questi fatti delle ultime settimane con quella che è stata la storia degli ultimi mesi del movimento contro l'aumento dell'età pensionabile, che invece è radicalmente diverso, perché è un movimento pure che ha avuto dei momenti, come dire, di radicale scontro, di conflitto nella piazza, ha saputo esprimersi anche in maniera molto determinata e numerosa, ma aveva come primo piano la relazione con l'istituzione, era il suo cuore, quindi è una cosa totalmente diversa. Allora il problema è capire, non tanto secondo me la consapevolezza anticapitalista del movimento, che è una roba che ha tempo da crescere, e tempo ce n'è da questo punto di vista, ma è capire se esiste un possibile terreno di incontro oppure no tra una situazione come questa qua delle città delle ultime settimane e quello che è stato il grosso movimento contro l'aumento dell'età pensionabile. Ecco, sono le ultime due cose più recenti che in Francia sono state, insomma, abbastanza notevoli. Ecco, no. Ma sì, quest'ultimo intervento mi sembra molto pertinente, nel senso che io ho provato un po' a dirlo prima, è chiaro che il radicalismo che c'è stato, che si è espresso nella rivolta degli ultimi giorni, è un radicalismo di chi si sente completamente fuori, no? Perché poi la prospettiva qual è? Continuare a vivere in queste case, in queste HLM sempre più malandati, vivendo magari di reddito minimo di inserimento, senza nessuna prospettiva. Per cui, come dire, la grande menzogna, la grande promessa non mantenuta ormai si palesa in tutta il suo essere ingannevole, no? Per cui è chiaro che poi ci si chiama completamente fuori. Le scuole, per esempio, no? Ne parlava Sandro prima, è chiaro che le scuole di banlieue, ma non solo le scuole di banlieue, molte scuole sono ormai completamente squalificate, rilasciano titoli completamente inutili dal punto di vista dell'inserimento sul mercato del lavoro. E questo sta cominciando anche in Italia, non è soltanto Francia. Che mi serve avere fatto la maturità all'istituto tecnico di Rozzano? È come non avere nessun titolo di studio, è esattamente la stessa cosa. Per cui la scuola diventa un ulteriore elemento di ghettizzazione, altro che le favole sull'ascensore sociale, sulla scuola come elemento della democrazia. La scuola diventa un elemento di riproduzione e di conservazione dell'esistente, anzi appesantisce le situazioni, perciò che si bruciano le scuole, no? Ne sono perfettamente consapevoli. E che legame può esserci invece con le altre realtà che pure hanno mostrato un'enorme radicalità, che invece cercano un'interlocuzione con lo Stato? Qui il crinale è molto delicato, un po' Sandro ne parlava prima, è chiaro che non è facile, perché quelli sono, come dire, probabilmente gli ultimi spezzoni di una società che era ancora organizzata diversamente, no? Sono le ultime propaggini della società del lavoro che rivendica il suo diritto a avere un trattamento pensionistico come è stato meritato e acquisito dal punto di vista dei diritti. E allora quale può esserci? Quale interlocuzione può esserci con i giovani rivoltosi? Molto poca, penso, no? Molto poca, se non in alcuni segmenti più sensibili a una riflessione più ampia e generale su dove sta andando la società francese. Queste voci sono isolate, perché se Sarkozy voleva passare l'aspirapolvere nelle banlieue, il carcere, come diceva lui, per ripulirlo dalla racaglia, dalla schifezza, no? E qua non c'è più bisogno dell'aspirapolvere, ma ci vuole il turbo aspiratore, no? È chiaro che le misure di tipo poliziesco e contenitivo saranno probabilmente a lungo le uniche misure utilizzate, anche perché concessioni dal punto di vista economico, nell'80-81, quando c'era stata la marcia del Beur, gli avevano promesso: vi daremo soldi, no? Vi daremo case migliori, eccetera, eccetera. Avevano addirittura cercato di istituzionalizzare una parte del movimento facendola confluire in parte nel Partito Socialista, e poi gli è andata a buca, perché poi, nonostante abbiano provato con i quattrini, perché poi la Francia, il governo francese ci ha provato seriamente a migliorare le condizioni nei cosiddetti quartieri sensibili, nei quartieri difficili, hanno investito miliardi con la politica della ville. A partire dagli anni 90 il governo francese ha investito miliardi nelle periferie, e che non è servito un fico secco, perché non sono cambiate le condizioni di fondo, per cui non sono stati in grado di dare lavoro, casa, prospettive. E cosa hanno fatto? Gli hanno costruito appunto la palestrina, il caffè, la piscinetta, no? Così ve ne state lì, almeno avete qualcosa da fare. Però in realtà queste misure sono state palliative. E allora che cosa possiamo pensare? Che sicuramente non verrà da un governo come quello di Macron una risposta in termini di interventi radicali e redistributivi dal punto di vista economico o di incremento delle attività welfariane, no? Dei servizi welfariani, anche se il welfare francese continua a funzionare molto meglio del nostro. Ma è chiaro che comunque queste misure sono insufficienti. D'altra parte, presto vedremo anche da noi, no? Perché poi non è che, come dire, che noi stiamo tanto meglio, e che per il momento la situazione italiana è ancora una situazione, tra virgolette, silenziosa, non si sa fino a quando e in che termini. Però l'impressione mia è che, come dire, se non si mutano i grandi assi di orientamento dell'epoca dal punto di vista dei governi, dal punto di vista di quello che i governi fanno, dal punto di vista delle prospettive neoliberali, se non si muta questo, non muterà la situazione, non migliorerà la situazione. E anche possibili momenti di crocevia, di incontro, eccetera, eccetera, saranno sicuramente rari e difficili. Ecco, adesso Sandro chiede nuovamente la parola, poi se qualcun altro vuole fare altre considerazioni o porre altre domande, e poi magari dico anch'io una roba in mezzo di 5 minuti. Vai Sandro. Sì, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Agostino. Pronto? Sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Agostino. Mi sentite? Sì. Ecco, vai pure. Sì. Vorrei giusto chiedere, ripercuoto quello che ho sentito con Michel Coref, che è un compagno, amico universitario, intervistato dal Foglio Quotidiano qualche giorno fa. E il Foro Quotidiano ha pubblicato la sua intervista e ha messo giusto un biglietto, un commentario. Perché in Italia non succede niente. E dunque, siccome parliamo della Francia, ma sono con voi in Italia, compagni, mi chiedo io e vi chiedo a voi perché in Italia non succede niente. Cioè, io vengo dall'Italia degli anni 60-70, che era il faro rivoluzionario del mondo intero. E io sono contento, come altri italiani, di essere in Francia, perché c'è un clima comunque che la gente si rivolta, insomma, non si mangia tutto, non si piega. E perché in Italia, cioè, la situazione degli immigrati in Italia adesso, penso che ci siano il 10% degli abitanti in Italia che sono immigrati. Alcuni, non so che popolazione sono italiani o insomma in regola, diciamo, e che vivono situazioni evidentemente catastrofiche dal punto di vista della vita, dell'abitazione, delle risorse, eccetera, eccetera. Perché in Italia, porco Dio, non ci sono esplosioni? La situazione in Italia è mostruosa dal punto di vista delle condizioni di lavoro, di abitazione, di vita della gente, degli immigrati evidentemente, ma anche degli italiani, insomma, poveri. Cioè. E perché in Italia non succede niente? Perché non ci sono rivolte? Perché non ci sono, non so, sono un sacco di compagni che fanno e cercano di fare delle cose, ma c'è questo vuoto siderale di non so, e mi interroga, ma non so, le rivolte non sono mai previste, non sono mai organizzate da nessuno. Le rivolte succedono perché la gente coinvolta non ne può più. E dunque penso che succederà in Italia nei prossimi anni delle rivolte insurrezionali come in Francia in questi ultimi anni, però non so quando, non so dove, non so come, e spero. Neanche noi. Le domande poste da Alessia, quelle poste da Tommaso, sono effettivamente cruciali, basterebbero a riempire una serata e più. Io non ho la risposta a quanto ha detto Tommaso. Effettivamente si tratta di pezzi di società che vivono un'esperienza molto molto diversa, con una copertura anch'essa estremamente diversa, i sindacati da una parte e nessuno dall'altra. Però c'è qualche cosa che secondo me, e anch'io pongo questa considerazione in forma di domanda, tieni insieme questi momenti diversi del conflitto sociale, e secondo me questo qualche cosa è la maniera in cui si sta in piazza, nel senso che la gestione complessiva del movimento di lotta contro la riforma delle pensioni è stata in mano ai sindacati, con gli effetti nullisti che abbiamo visto alla fine. Quindi una forma di conflitto controllato che di questi tempi non porta evidentemente a niente. Però questo non esaurisce quanto è accaduto in questi mesi, perché ci sono state le manifestazioni notturne che hanno costituito una grossa parte del movimento, e addirittura la possibilità che questo sia continuato, perché se ricordate all'inizio sembrava che si andasse a spegnere molto velocemente, invece poi è ripreso ed è arrivato fino alle ultime grosse manifestazioni. E oltre alle manifestazioni notturne incontrollate selvagge di una parte, soprattutto dei giovani, eccetera, c'è stata la riproposizione della dinamica del corteo di testa dentro enormi manifestazioni in cui a seconda dell'occasione e anche della localizzazione se ne sono viste un po' di tutti i colori. E in ogni caso è un fatto che nei cortei di testa ci sono migliaia di attivisti, soprattutto giovani, molto mischiati, con una coloritura di pelle anch'essa diversa. Dalla banda di casseur in fondo al corteo che spacca le vetrine e viene condannata unanimemente, si è passati a un corteo di testa rispetto al quale la gran parte dei manifestanti non aveva niente da ridire. Ci sono state delle situazioni come quella del primo maggio a Lione, in cui non si trattava di un corteo, si trattava di un saccheggio di tutto ciò che il corteo trovava sulla strada, operato dalla gran parte dei partecipanti, con intere famiglie che facevano la spesa gratis nei supermarket aperti, con una capacità di respingere la polizia molto, molto forte. È chiaro che non è un'unificazione né dal punto di vista dei contenuti, degli obiettivi rivendicativi e neanche dei modi di vita complessivi, ma questo processo non ha portato delle conseguenze nel corso del tempo, perché poi appunto non è iniziato nei mesi scorsi, ma si è riproposto con forza crescente negli ultimi anni, da una parte. Dall'altra, il livello di violenza della polizia è l'altro elemento di unificazione di queste espressioni di conflitto pure molto, molto diverse, tant'è che il moto To Le Monde Tesla Police ha attraversato e ha coinvolto soggetti che un tempo non si sarebbero mai riconosciuti in questa parola. Addirittura mi è capitato di leggere che qualche settimana fa in Francia c'è stata una grossa polemica giornalistica, perché alla festa annuale dell'Humanité, quindi l'organo del PCF, tutti i presenti intonavano questo ritornello, Tout le monde est là-bas, e quindi la Repubblica è tradita da parte di chi dovrebbe, insomma, è qualcosa di grosso che unifica almeno una parte dei presenti in strada, al di là dei contenuti e delle occasioni della manifestazione. Questo secondo me è un qualche cosa su cui vale la pena di riflettere, per cercare di rispondere alla domanda se questa sequela di mobilitazioni, che in Francia procede da vari anni, ha prodotto delle modificazioni soggettive e delle contaminazioni. Io trovo poco probabile che dei giovani che si comportano come altri giovani qualche mese prima non abbiano niente in comune con quello che c'è. Di sicuro non sono scesi in strada per la riforma delle pensioni, perché non ce l'avranno mai, non si sognano neanche di averla, vivono tutt'altro rapporto con lo Stato. Ma quello che è accaduto in quei mesi, cavoli, lo sanno e lo riproducono dentro le loro reti amicali, dentro le loro forme di organizzazione, che sarebbero queste sì da capire, perché lì evidentemente ci sono delle reti informali ma di estrema efficacia, perché questi ragazzi sanno benissimo a che cosa vanno incontro, qual è il livello di violenza che si trovano di fronte. Sono molto coraggiosi, molto aperti all'esperienza, ma evidentemente sono anche organizzati in maniera da quantomeno limitare i danni subiti e aumentare quelli prodotti, e questo è da capire, da conoscere. Ecco, io non ho una risposta, e di sicuro non c'è una risposta già realizzata nei termini di un'unificazione complessiva, ma la mia impressione è che un pezzo alla volta parti intere della società francese si trovano in contraddizione, in conflitto con lo Stato. Prima i gilets jaunes, poi quella parte di lavoro ancora sindacalizzata e protetta da quello che resta, e non è poco, del welfare francese. Prima gli studenti, adesso i giovani, che giustamente è riduttivo definire banlieusards, perché sono i giovani poveri sostanzialmente. Piano piano, cioè, manca. Chi è che manca? Infatti si diceva: i giovani delle Baglie non si sono mossi perché non hanno partecipato alle lotte dei mesi scorsi. Trac, no? Infatti, Macron, credo ci sia rimasto abbastanza di merda, no? Dopo aver risolto abbastanza brillantemente la situazione, abbastanza brillantemente, però a costo di uno strappo di tipo politico-istituzionale che non è, sembra stato particolarmente gradito. I sondaggi, insomma, qualcosa significano. Ecco, quali possano essere i tempi, i passi successivi, come questi si intreccino con quindi quella serie di domande cruciali che ponevi tu, evidentemente non lo so. Però per me è poco probabile che vedendo muoversi così tanti sociali, non ci sia qualche cosa che viene riconosciuto accomunante tra questi fatti diversi che alla fine costituiscono un continuum. Non è quel livello di contaminazione che può essersi dato nell'Italia degli anni 70, in cui tutto si intrecciava, la lotta debordava dalla produzione alla riproduzione, però è un qualche cosa che alla lunga ti sfianca se sei al governo, cioè è dura. Ecco, un po' non è una risposta, sono delle domande, però tra l'altro in tante analisi critiche, anche significative, dei movimenti in Francia degli anni passati, ultimo questo sulla riforma delle pensioni, secondo me è troppo poco considerata la questione della piazza, della manifestazione, di come ci si trova, di come ci si intende. Anche lì c'è un processo di aggrumazione velocissimo, anche perché il controllo è molto, molto stretto, i filtri sono molto potenti, ma improvvisamente si forma il gruppo di testa, che prima non c'era, 10 minuti prima non c'era, e incomincia, insomma, anche lì delle cose, certo, per noi qui in Italia è fantascienza, no? Sono le fiabe belle, però visto che siamo qui, quantomeno cerchiamo di capire cosa avviene oltre Alpe, oltre che poi è lo stesso discorso anche per le situazioni che hai ricordato della Gran Bretagna e della Germania. Lì si tratta di lotte di lavoratori che partono dalla loro condizione lavorativa e rompono uno stato di soggezione, di passività. Qui evidentemente l'elemento unificante non è il lavoro, semmai sono altri rapporti di tipo territoriale, però anche questo pezzo fa parte della crisi di governo, perché non è solo una crisi economica, è una crisi di governabilità, o perlomeno va a profilarsi in questi termini, a partire poi da un'altra cosa che non viene, secondo me, a sufficienza ricordata: la scomparsa non tanto di quelli che sociologicamente sono detti gli elementi intermedi, ma della capacità di controllo dei partiti di sinistra. Cioè, una volta di fronte a te trovavi, oltre agli sbirri, la fila dei sindacalisti e dei militanti del PC, che ti impedivano, a meno che tu non fossi bello grosso, di fare quello che... Adesso... esatto, adesso di fronte a te tu di fatto trovi tanto gli sbirri. La volta che gli sbirri non ci sono, tu vai, entri in casa del sindaco o entri nel ministero col muletto. Non è una cosa da niente. Questo non vuol dire che lo Stato si rega soltanto sul... Però un elemento forte di contenimento delle lotte, come è stato il movimento operaio, non c'è più. E altera fortemente i rapporti di forza e di governabilità dei movimenti. Basta. Altre domande? Se no, ci guardiamo Strobe, che dura poco, ma merita. Spegniamo le luci in sala e azioniamo il videoproiettore. Baci, buonasera e arrivederci.